Io ricordo a tutti che all'inizio dell'anno scorso noi partimmo con una polemica pubblica molto forte. Ricordate che scoprimo di essere in un paese nel quale non si riusciva a quantificare bene nemmeno a quanto ammontavano i debiti della pubblica amministrazione nei confronti del sistema dell'impresa. Tanto è vero che esattamente nel marzo del 2009, cioè più di un anno fa, il presidente di Confindustria, Mario Marcegaglia, a un certo punto quantificò quella cifra e disse: i debiti non onorati per troppi mesi di tempo dalla pubblica amministrazione sono la bellezza di 60 miliardi di euro. A quel punto iniziarono delle polemiche abbastanza roventi, perché il governo si infastidì di questa cifra dicendo: ma neanche per idea, la cifra è metà. Il ministro dell'economia in una sede parlamentare disse: no, ma sono 30 miliardi di euro. Questa cosa andò avanti per diversi mesi, ci fu l'intervento del governatore della Banca d'Italia che quantificò in una cifra intermedia l'ammontare di questi debiti. Di polemica in polemica arrivammo a giugno. A giugno il ministro dell'economia disse: qualunque sia l'ammontare, e il ministro dell'economia chiarì, in realtà, rispetto a se bisogna prendere sul serio la cifra di 60 miliardi di cui parlava Emma Marcegaglia, vi devo dire che il più riguardano la sanità e il più sono concentrati nel sud, quindi, come dire, Tremonti usava un caveat, come dire, non chiedetemi a quanto ammontano davvero perché nessuno è in grado di dirlo. Erano i mesi in cui fiorivano le polemiche sul fatto che intere regioni come la Calabria non erano in grado di contare il deficit sanitario se non oralmente, ricordate. Comunque alla fine a giugno ci fu un impegno del ministro Tremonti, il quale disse: rispetto ai 18 miliardi che con la legge di assestamento di stabilità di metà anno do alla pubblica amministrazione per onorare i suoi debiti, ce ne aggiungo 5 in più, 23 miliardi, e con questo credo di poter fare tutto il necessario. Qualunque altra proposta di compensazione automatica, debito credito alle imprese eccetera, non fu accolta. È chiaro che il governo aveva la preoccupazione che emergessero davvero come deficit aggiuntivo questi debiti. Poi il tema piano piano è sfumato. Noi però, di fronte ad alcune notizie di cronache, ci siamo posti il problema se sia sfumato per sfinimento degli imprenditori o sia sfumato perché davvero la pubblica amministrazione ha iniziato a pagare.